Infatti, il signor di Charlus, che aveva proposto a Madame de Surgy di lasciare quel locale troppo caldo ed andare a sedersi insieme a lui in un altro, anziché chiedere ai figli di accompagnare la madre, l'aveva chiesto a me. In questo modo, dopo aver gettato l'esca, dava a vedere di non interessarsi ai due giovani. In più, mi usava una cortesia a buon mercato dal momento che Madame de Surgy-le-Duc non era troppo ben vista. Disgraziatamente, ci eravamo appena seduti in un angolo senza via d'uscita quando Madame de Saint-Hubert, oggetto dei sarcasmi del barone, si trovò a passare di lì. Forse, per dissimulare i sentimenti ostili che ispirava a Charlus, o per mostrare apertamente il suo disdegno, e soprattutto per sfoggiare la propria intimità con una donna che conversava con lui in modo così familiare, la marchesa rivolse un saluto sdegnosamente amichevole alla celebre beltà, la quale lo ricambiò, ma sogguardando Charlus con un obliquo sorrisino di scherno. Lo spazio era tuttavia così angusto che quando Madame de Saint-Hubert volle dietro di noi continuare il suo reclutamento di invitati per l'indomani, si trovò intrappolata e non le fu agevole liberarsi. Momento prezioso di cui Charlus, ansioso di far brillare la sua verve insolente agli occhi della madre dei due giovani, non mancò certo di approfittare. Una sciocca domanda che io gli posi senza malizia gli fornì l'occasione di un numero magistrale di cui la povera Saint-Hubert, pressoché immobilizzata dietro di noi, non poteva perdere praticamente una sola parola. «Ci crediate o no, questo impertinente giovanotto», esordì additandomi a Madame de Surgy, «mi ha chiesto, trascurando il doveroso scrupolo di celare bisogni di tal sorta, se sarei andato da Madame de Saint-Hubert, vale a dire, suppongo, se avessi un attacco di colite. In ogni caso, cercherei di sbrigare la faccenda in un luogo più confortevole che non la casa di una persona la quale, se non ricordo male, festeggiava il suo centenario quando io cominciavo ad andare in società, e dunque ovviamente non da lei. Eppure, chi potrebbe riuscire più interessante? Quante memorie storiche viste e vissute dell'epoca del primo impero e della Restaurazione, e quante storie intime, anche che certamente non avevano nulla di santo, ma dovevano essere molto aperte, a giudicare dalla coscia ancor lesta della veneranda saltatrice. Quel che mi tratterrebbe dall'interrogarla su quei tempi appassionanti è la sensibilità del mio apparato olfattivo. La vicinanza della dama è già più che sufficiente. Tutto a un tratto mi dico, mio Dio, è scoppiato il pozzo nero. Invece no, è semplicemente la marchesa che in qualche conato invitereccio ha aperto la bocca. E voi mi capite, se avessi mai la sventura di recarmi in casa sua, il pozzo nero si moltiplicherebbe in una terrificante operazione di spurgo. E dire che porto un nome mistico. Un nome che mi fa sempre pensare con giubilo, sebbene la titolare abbia passato da un pezzo la scadenza del suo giubileo, a uno stupido verso che qualcuno definirebbe deliquescente. Ah, vert, combien vert, était mon âme, ce jour-là. Ma mi ci vorrebbe una verdura meno sudicia. Mi dicono che l'infaticabile adescatrice dia dei garden parties. Io li chiamerei degli inviti a passeggiare per le fogne. E voi ci andrete a inzaccherarvi laggiù? Chiese a Madame de Surgy, la quale a questo punto si trovò in imbarazzo. Infatti, volendo fingere di fronte al barone che non ci sarebbe andata e sapendo che avrebbe dato alcuni giorni di vita pur di non perdere il ricevimento Saint-Hubert, pensò di cavarsela con un compromesso, cioè con l'incertezza. Ma l'incertezza prese una forma così stupidamente dilettantesca e così meschinamente da sartoria che il signor di Charlus, senza farsi scrupolo d'offendere Madame de Surgy, alla quale pure desiderava piacere, sbottò in una risata per segnalarle che non attaccava. «Ammiro sempre chi fa dei progetti», disse la marchesa. «A me invece succede spesso di disdire gli impegni all'ultimo istante». C'è un problema d'abito estivo che può cambiare la situazione. Agirò secondo l'ispirazione del momento. Per quanto mi riguardava, l'abominevole discorsetto di Charlus mi aveva indignato. L'organizzatrice dei garden parties io l'avrei colmata da attenzioni. Purtroppo, nella vita mondana come in quella politica, le vittime sono così vili che non si può prima o poi non perdonare i loro carnefici. Madame de Saint-Nouvel, che era riuscita a disincastrarsi dall'angolo di cui noi bloccavamo l'uscita, sfiorò involontariamente passando il barone e con un riflesso di snobismo che annientò in lei qualsivoglia collera e anche forse con un'aspirazione ad attaccare discorso che non doveva essere la prima del genere. «Oh, vi chiedo scusa, signor di Charlus, spero di non avervi fatto male», esclamò, come inginocchiandosi davanti al suo padrone. Questi non si degnò di rispondere che con una larga risata ironica e concesse appena un «buonasera» che si risolveva in un ulteriore insulto, perché era come se accorgesse della presenza della marchesa soltanto dopo che lei l'aveva salutato per prima. Infine, con una suprema bassezza di cui soffersi per lei, Madame de Saint-Nouvel mi si accostò, mi prese da parte e mi borbottò all'orecchio. «Ma cosa avrò mai fatto al signor di Charlus? C'è chi sostiene che non mi consideri abbastanza chic per i suoi gusti», aggiunse ridendo a gola spiegata. Rimasi serio. Da un lato trovavo stupido che mostrasse di credere o di voler far credere che nessuno in realtà fosse più chic di lei. Dall'altro, le persone che ridono così forte di ciò che dicono e che non è per niente spiritoso, ci dispensano in tal modo, prendendo l'ilarità a loro carico, dal parteciparvi. Altri giurano che è offeso perché non lo invito. Il fatto è che non mi incoraggia molto a farlo. Si direbbe che mi tenga il broncio. L'espressione mi parve debole. Provate voi a investigare e venite a riferirmi domani. E se ha dei rimorsi e vuole accompagnarvi, portatelo. Non c'è peccato senza perdono. Mi farebbe persino un certo piacere, per via di Madame de Surgy, che ci resterebbe male. Vi lascio carta bianca. Avete più fiuto di chiunque altro per queste cose. Io non voglio aver l'aria di elemosinare invitati. Su di voi, in ogni caso, faccio pieno assegnamento. Pensai che Swann, aspettandomi, si stesse stancando. Inoltre non volevo rincasare troppo tardi, a causa d'Albertine. E preso congedo da Madame de Surgy e dal signor di Charlus, raggiunsi l'amico malato nella sala da gioco. Gli chiesi se ciò che aveva detto al principe durante il loro colloquio in giardino fosse proprio quello che ci aveva riferito il signor di Breuté, di cui non feci il nome, e avesse attinenza con un breve testo teatrale di Bergotte. Scoppiò a ridere. «Ma che? Non c'è niente di vero, neanche una parola, è tutta un'invenzione, e poi sarebbe stata un'idiozia bella e buona. È davvero incredibile, questa generazione spontanea dell'errore. Non sto a chiedervi chi ve l'abbia detto, ma sarebbe molto interessante, in una cornice così ben delimitata, risalire di gradino in gradino per vedere come si sia formata una simile fandonia. Del resto, com'è possibile che a qualcuno interessi quel che mi ha detto il principe? È ben curiosa la gente. Io non lo sono mai stato, tranne quando ero innamorato e geloso. E non si può certo dire che mi abbia insegnato granché. Voi? Siete geloso?» Risposi che non avevo mai sperimentato la gelosia, che non sapevo nemmeno cosa fosse. «Perbacco, mi complimento con voi. Quando lo si è solo un po' non è del tutto sgradevole, e questo da due punti di vista. Da un lato perché consente a chi non è curioso di interessarsi alla vita degli altri o perlomeno di un'altra, e poi perché ci fa star bene, in fondo, sentire la dolcezza di possedere una donna, di salire in carrozza con lei, di non lasciarla sola. Ma è così solo al primissimo stadio della malattia, oppure quando la guarigione è quasi completa. Nell'intervallo si soffre il più atroce dei supplizi. Del resto, anche le due dolcezze di cui vi parlavo, devo dirvi che le ho conosciute ben poco. La prima per colpa del mio carattere, che è incapace di riflessioni molto prolungate. La seconda a causa delle circostanze, per colpa della donna, voglio dire, delle donne di cui sono stato geloso. Ma non ha importanza. Anche quando non si tiene più alle cose, non è affatto indifferente averci tenuto, perché era sempre per qualche ragione che sfuggiva agli altri. Il ricordo di quei sentimenti avvertiamo che è qui, dentro di noi, è dentro di noi che dobbiamo rientrare per contemplarlo. Non prendetemi troppo in giro per questo gergo idealistico. Quello che voglio dire è che ho molto amato la vita e ho molto amato l'arte. Ebbene, adesso che sono un po' troppo stanco per vivere con gli altri, quei vecchi sentimenti così personali, così miei, mi sembrano, nella mania di tutti i collezionisti, estremamente preziosi. Schiudo a me stesso il mio cuore come una sorta di bacheca. Mi guardo uno per uno tanti amori di cui gli altri non sapranno mai nulla. E di questa collezione, alla quale adesso sono ancora più attaccato che alle altre, mi dico, un po' come Mazzarino dei suoi libri, ma del resto senza alcuna angoscia, che sarà parecchio seccante doverla lasciare. Ma veniamo al colloquio col principe. Lo racconterò a una sola persona, e questa persona sarete voi. Mi disturbava nell'ascolto la conversazione che il signor di Charlus, tornato nella sala da gioco, protraeva all'infinito a due passi da noi. «Anche voi leggete? Che cosa fate?» chiese al conte Arnulf, che non conosceva Balzac neppure di nome. Ma la sua miopia, facendogli vedere ogni cosa rimpicciolita, creava l'illusione che egli scrutasse remote lontananze, di modo che, rara poesia, in uno scultore o dio greco, nelle sue pupille si inscrivevano come delle distanti enigmatiche stelle. «Che ne direste, signore, d'andare a far due passi in giardino?» proposi a Swann, mentre il conte Arnulf, con una pronuncia un po' blesa, che sembrava indicare come il suo sviluppo, perlomeno mentale, non fosse ancora compiuto, rispondeva a Charlus con compiacente e ingenua precisione. «Oh, io sono piuttosto per il tennis, il golf, pallone, corsa a piedi, il polo soprattutto». Così Minerva, una volta suddivisasi, aveva cessato in qualche città d'essere la dea della saggezza e aveva incarnato una parte di se stessa in una divinità puramente sportiva, ippica, Atena Ippia. E andava anche il conte a sciare a St. Moritz, giacché Pallade Tritogenia frequenta le alte vette e sfida i cavalieri. «Ah!» fece Charlus, col sorriso trascendente dell'intellettuale, che non si cura nemmeno di dissimulare il proprio scherno e che d'altra parte si sente talmente superiore e disprezza a tal punto l'intelligenza dei meno sciocchi da distinguerli appena da quelli che lo sono di più, a patto che gli si rendano ben accetti in qualche altro modo. Rivolgendo la parola ad Arnulf, il signor di Charlus stimava di conferirgli per ciò stesso una superiorità che tutti dovevano invidiare e riconoscere. «No», disse Swann, «sono troppo stanco per camminare. Sediamoci piuttosto in un angolo tranquillo, non mi reggo più in piedi». Era vero, e tuttavia mettersi a conversare gli aveva già restituito una certa vivacità. Il fatto è che anche nella stanchezza più reale c'è, soprattutto per i soggetti nervosi, una parte che dipende dall'attenzione e si conserva solo attraverso la memoria. Si è improvvisamente stanchi non appena si teme di esserlo, e per riprendersi dalla stanchezza basta dimenticarla. Swann non era certo uno di quegli esauriti infaticabili che, presentatisi disfatti, appassiti, cascanti, si rianimano nella conversazione come un fiore nell'acqua e possono attingere per ore nelle proprie parole delle energie che purtroppo non si trasmettono agli ascoltatori, visibilmente sempre più prostrati via via che il conversatore diventa più arzillo. Apparteneva però alla forte razza ebraica, della cui energia vitale, della cui resistenza alla morte, sembrano partecipare anche gli individui in quanto tali. Colpiti ciascuno da malattie particolari, così come la razza lo è dalla persecuzione, essi si dibattono indefinitamente in terribili agonie che possono protrarsi oltre ogni termine verosimile, quando non si scorge più che una barba da profeta sovrastata da un naso immenso che si dilata per aspirare gli ultimi soffi, prima che scocchi l'ora delle preghiere rituali e cominci puntuale la sfilata dei lontani parenti che avanzano con movimenti meccanici, come in un fregio a siro.